l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. In questa puntata speciale siamo in diretta da Firenze, da Piazza della Signoria, dove si sta svolgendo la prima edizione del Festival d'Europa e quindi non potevamo certo mancare. Come sempre vi ricordo che siamo in diretta, questa è Radio 24, questo è il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet per raccontare l'Europa anche da altri punti di vista. Radio 24 segue l'attualità europea giorno per giorno, la cronaca, le notizie, tutto quello che concerne la politica e l'economia. Noi siamo qui per darvi anche altre sfumature. E in Facebook trovate le nostre pagine ufficiali, facebook.com/l'altraeuropa, che aggiorna in diretta con tutti i link relativi agli argomenti trattati, ma oggi sarà una puntata live, perché tanti ospiti anche di passaggio. Cercheremo di raccontarvi questo spirito europeo che si sta cercando di respirare, di trasmettere qui in Firenze, che insomma è già una città dove è bello. Ieri sera camminavo, ci sono tantissime voci, tantissimi accenti, tantissime lingue, già europea così proprio nella sua identità, e questa identità oggi si sta allargando. Con me in studio, e lo saluto, è l'addetto stampa della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e un amico dell'altra Europa, do il benvenuto ad Angel. Angel, il tuo cognome te lo faccio dire a te perché sembra un gioco. È Beremlinski, infatti è quasi un codice fiscale, è difficile anche per i miei connazionali. Io sono bulgaro e quindi anche loro hanno difficoltà a pronunciarlo. Però mi ricordo per esempio che quando frequentavo l'università in Italia, sì? I miei compagni di università, appunto scherzando e per facilitare un po', mi chiamavano Beve Whisky. E quindi insomma era un modo anche simpatico per ricordarselo. Anche il Festival d'Europa ci avete lavorato tanto, lo avete voluto, ci avete creduto, una bella risposta, perché insomma l'Europa oggi si respira camminando per Firenze, e credo che sia già un bel segnale. Esattamente, non solo risposta, io direi anche una proposta. L'idea che ha poi fatto nascere il Festival, questa bellissima iniziativa, è stata quella di mettersi in piazza, ovvero di cercare di avvicinare la gente, di celebrare in questo modo spontaneo, diretto, la festa dell'Europa, che come forse molti sanno è il 9 maggio, all'anniversario del famoso discorso di Robert Schuman. E questo è diciamo uno dei simboli che stiamo cercando appunto di trasmettere, uno dei simboli che della identità europea che qui oggi è presente, e oggi è live come siamo live anche noi. Fare la festa all'Europa, qualcuno veramente vorrebbe fare la festa all'Europa, nel senso che insomma c'è ancora chi è contrario, no? C'è una discussione quotidiana, ma invece è bella l'idea di fare la festa, nel senso di celebrarla in occasione delle giornate del 9 maggio, però di proporre anche le mille sfaccettature, le mille opportunità, che credo sia un po' la parola chiave di questo festival. Esattamente, noi qui ci troviamo fisicamente nel padiglione Europa, che è stato ideato e creato dalla collaborazione, è stato frutto della collaborazione di tutte le istituzioni che in Italia comunicano l'Europa ai cittadini, ovvero la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Governo Italiano. Quindi quello che noi vediamo e che purtroppo gli ascoltatori non possono vedere, però possono sentire, è appunto un posto, un luogo di ritrovo di tutte le opportunità, di tutte le politiche, di tutte le cose concrete, risultati concreti, benefici concreti che i cittadini possono avere dall'Europa. Si dice spesso che l'Italia non è un paese per giovani, l'Europa è una grande nazione per giovani? Beh, io penso di sì, io stesso sono giovane, sono un giovane europeo e mi piace l'idea di esserlo, perché sono nato in Bulgaria, ho studiato in Italia, ho fatto diverse esperienze all'estero, poi adesso finalmente lavoro per un'istituzione europea, e quindi questo per me ha rappresentato insomma il punto di arrivo più naturale. Credo che l'Europa sia fatta a misura di giovani, perché appunto facilita tantissimo la comunicazione, il contatto tra questi giovani, gli dà tante opportunità, gli dà la possibilità di viaggiare, di studiare, l'importante è andarle a cercare, secondo me, l'importante è crederci e andarle a cercare. Festival d'Europa.eu è il sito ufficiale dove c'è l'intero programma, ci sono convegni, ci sono incontri, ci sono mostre molto belle, poi vi andremo a raccontare alcuni di questi appuntamenti. Già adesso davanti a noi, per esempio, sta iniziando una tavola rotonda dove si parla di giovani in movimento. Di giovani in movimento, delle opportunità per i giovani appunto di trovare, di studiare all'estero, nei paesi europei ma anche fuori, e di lavorare all'estero. Questa è una delle iniziative, noi le chiamiamo così nel linguaggio bruxellese, iniziative faro, che sono diciamo alla base della strategia del rilancio economico dell'Europa per i prossimi anni fino al 2020, ovvero quello di mettere al centro la forza giovane dell'Europa in movimento. Per questo anche l'iniziativa si chiama Giovani in Movimento. Ieri c'è stato il lancio nazionale per l'Italia, il lancio dell'iniziativa. Oggi avremo appunto anche la commissaria Vassilio che visiterà anche il nostro padiglione, e qui noi abbiamo organizzato insieme agli amici del Parlamento Europeo, insieme ai nostri amici anche del governo, abbiamo organizzato degli eventi che appunto presentano queste nuove iniziative, tra cui anche Gioventù in Movimento, che appunto abbiamo la possibilità adesso di assistere. Gioventù in Movimento e Gioventù in Movida, ci sarà anche una notte blu questa notte, l'andremo poi a raccontare nel dettaglio. Angele, una curiosità, c'è anche tanta confusione sull'Europa, no? E tu credo che con la tua professione anche la vivi quotidianamente, tu sei addetto stampa, quindi ricevi quotidianamente telefonate di colleghi, di giornalisti, persone che cercano informazioni. Come mai che non si riesce a essere così chiari nello spiegare com'è strutturata questa Europa? Forse da un certo punto di vista è anche problema della costruzione stessa europea, mm-hmm. perché sono tante istituzioni diverse, questo è innegabile davanti agli occhi di tutti, quelli che almeno li conoscono un pochino, c'è la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, quindi non è una cosa molto facile da capire, però soprattutto per gli addetti ai lavori, soprattutto per i giornalisti con cui io mi confronto quotidianamente, è importante appunto avere l'idea un po' chiara, insomma, non confondere la Corte europea dei diritti dell'uomo con la Corte di giustizia europea, che sono due cose completamente diverse, e questo effettivamente capita. Noi devo dire noi della rappresentanza ci stiamo adoperando molto per fare un po' di formazione giornalistica, soprattutto abbiamo avviato un bellissimo progetto con le scuole di giornalismo, sì, in Italia, e stiamo andando appunto in tutte le scuole di giornalismo a descrivere in maniera facile, in maniera comprensibile che cosa è l'Europa e che cosa fa l'Europa. Grazie davvero, Angele, ricordiamo www.festivaldeuropa.eu fino al 10 maggio, quindi è iniziato ieri e ci sono ancora ben 3 giorni di attività qui a Firenze. Europostit. 2 euro per 10 anni. Nel gennaio 2012 l'euro compirà 10 anni. Per celebrare questo anniversario, tutti i 17 stati che lo utilizzano hanno deciso di emettere una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. Per scegliere quale sarà il disegno, c'è un concorso. Disegnate la faccia della moneta comune e se vincete, avrete la soddisfazione di vedere il vostro simbolo su milioni di monete utilizzate in tutta Europa e anche vincere un set di monete pregiato da collezione. Possono partecipare tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro, a condizione che abbiano compiuto i 12 anni entro la fine del 2011. Affrettatevi, c'è tempo fino al 20 maggio. Trovate tutte le regole su eurocoin-competition.eu. L'altra Europa. Ancora in diretta da Firenze, questa è l'altra Europa. Vi stiamo raccontando il Festival d'Europa, l'Europa a confronto in città Firenze. Noi siamo in Piazza Signoria all'interno del padiglione Europa e in diretta diamo anche il benvenuto al commissario Antonio Tajani. Buongiorno commissario. Buongiorno, buongiorno. Un'accoglienza e un saluto così. Buongiorno, no, ma è così, è più spontaneo. Appena arrivato, tutto bene? Tutto a posto, bene, no? Visto un'organizzazione perfetta di questo Festival dell'Europa che permetterà a tanti cittadini italiani ed europei di conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni comunitarie, che ahimè non è abbastanza noto. Spesso si parla male dell'Europa, ma a volte sono gli stati membri a essere responsabili, non le istituzioni comunitarie. Quindi ben vengano anche iniziative come la vostra di avere questa diretta da Piazza della Signoria, dal padiglione della Commissione Europea, per spiegare a tanti ascoltatori che magari sono in macchina, sono a casa, come funziona la macchina europea, quali sono i problemi, cosa può fare l'Europa per i cittadini e perché secondo me è sempre più giusto far parte di questa grande unione. Dobbiamo dibattere non se uscirne o meno, ma come costruirla nei prossimi anni. Ecco, questo credo che sia importante, avere un'Europa più politica, meno burocratica, un'Europa che dia risposte ai cittadini laddove gli stati membri nell'era della globalizzazione non sono in grado di farlo, come la grande questione dell'immigrazione. Non è un caso che la Commissione europea sia stata in prima linea per cercare di dare risposte concrete ai cittadini europei nel tentativo di risolvere il problema esplosivo dell'immigrazione in quest'ultima fase. Il presidente Barroso ieri era in Sicilia, ero con lui, prima a Palermo, poi sono stato a Catania, ma la Commissione europea, che è un po' il governo dell'Unione, ha fatto moltissimo per affrontare l'emergenza, investendo denaro, con una serie di iniziative, con una serie di proposte anche politiche che verranno presentate agli stati membri fra qualche giorno, perché si possa individuare una strategia a breve, a medio e a lungo termine che possa permettere di risolvere il problema dell'immigrazione partendo da quello che succede in Africa, cioè quello che si può fare in Africa per la crescita economica e per la stabilità. Insomma, la Commissione è in prima linea, poi a volte emergono gli egoismi degli stati membri, ma quella è un'altra cosa. Quindi dire l'Europa è lontana dall'Italia, l'Europa non affronta il tema dell'immigrazione, non è proprio corretto. Alcuni stati europei forse dovrebbero essere un po' più solidali con paesi come l'Italia, Malta, la Francia o la Spagna, che devono affrontare in prima linea il grande problema dell'immigrazione. Certo. Ma il problema è immigrazione, il problema è Africa, il problema è area del Mediterraneo. Quindi comunque una visione globale, ovviamente. Ma da cittadino, quindi non da politico, non da commissario, lei come la percepisce questa Europa? Come una cosa lontana o come una cosa vicina? È ancora troppo lontana, dovrebbe essere più vicina. Dobbiamo fare di più tutti quanti, i cittadini per cercare di capire, gli organi di informazione per spiegarla meglio, dedicando un po' più di spazio alle notizie che vengono dall'Europa, anche perché dobbiamo sapere noi cittadini che l'80% dell'attività del Parlamento italiano è applicazione di norme comunitarie. Devono spiegarsi meglio anche tutti coloro che operano nelle istituzioni europee, nel Parlamento, la Commissione, il Consiglio, far sapere quanto è importante quello che si fa, quanto incide quello che si fa a Bruxelles nella vita quotidiana. E come cittadino anche io mi devo rendere conto che non è importante rapportarsi soltanto con il comune o con qualche direzione generale di ministero a Roma, ma c'è un'altra capitale oltre a Roma che tutela i miei interessi, o dovrebbe tutelare i miei interessi, che si chiama Bruxelles. Ecco, se assumo come cittadino questa mentalità, allora un passo in avanti per la tutela dei miei diritti credo di poterlo fare. Ripeto, è un lavoro di tutti quanti noi. L'Europa non è soltanto una macchina burocratica, l'Europa è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà, il nostro modo di essere, il luogo dove vivono gli uomini europei, è il luogo dove, grazie a Dio, viviamo in pace da più di mezzo secolo. Io mi ricordo quando ero ragazzo, adesso ho 57 anni, che mio nonno mi raccontava quando era soldato durante la guerra del 15-18, a casa mia, come in tante altre case, appese al muro c'era la fotografia dello zio, del cugino morto in guerra. Fortunatamente i miei figli non hanno più nessun parente che è morto in guerra, questo vuol dire che questa Europa qualche cosa di buono e di tanto buono ha fatto per ciascuno di noi. Il fatto di non avere più guerre tra italiani e austriaci, tra tedeschi e francesi, tra inglesi e tedeschi, è un miracolo del quale forse non ci rendiamo conto. È come l'aria, l'aria per scontata, è vero? Se diamo tutto per scontato, vitale, ma certo. Non è così. Insomma, vivere anche in un continente dove, con tutti i problemi, tutte le difficoltà, comunque ci sono dei diritti acquisiti per i lavoratori, per i cittadini, per le donne, beh, questo mi pare che sia qualche cosa di importante. Non è così in tutto il mondo. Quando vediamo per esempio donne offese, mortificate, che sono considerate inferiori agli uomini, in altre parti del mondo ci dobbiamo rendere conto che da noi fortunatamente le cose sono diverse. Si deve fare sempre meglio, questo è ovvio, non è che abbiamo mai raggiunto la perfezione, però se andiamo a vedere quanto di buono ha fatto l'Europa per noi cittadini in questi ultimi anni, dobbiamo dire evviva l'Europa, meno male che c'è. Questo non significa accontentarsi, non significa dire che l'Europa non deve e non può fare di più. L'Europa deve e può fare di più, soprattutto può contare politicamente di più. La politica dovrebbe essere il servizio che si rende ai cittadini, non sempre è così. Lo so bene, lo dico da politico, ci sono politici più bravi, meno bravi, quelli che si disinteressano dei cittadini, che lo fanno solo per egoismo personale. Però se noi veramente riusciamo a trasformare l'Europa in un soggetto politico che si preoccupa di tutelare i diritti e anche imporre i doveri ai cittadini, allora sì che potremmo dire che questa Europa è diventata e sarà indispensabile. E quando parla dell'Europa come un'opportunità professionale, soprattutto per i più giovani, sta invitando i giovani a fare le valigie? No, per carità, io dico che l'Europa oggi è un grande mercato, è anche un grande mercato dove 500 milioni di persone possono muoversi liberamente. Io non invito i miei figli ad andare a lavorare a Berlino o a Parigi piuttosto che a Bratislava, però i miei figli sanno che possono andare a Parigi, a Berlino, a Bratislava o a Londra o a Madrid a cercare lavoro, se può far loro piacere, se ci sono delle opportunità che valorizzano il loro studio e valorizzano il loro impegno. Questo credo che sia importante per i nostri figli, per le future generazioni, che c'è la possibilità di trovare occupazione, ma di poter anche realizzare se stessi girando in Europa. Un tempo si diceva vado a lavorare a Milano, vado a lavorare a Roma, sembrava chissà che cosa perché c'erano tante ore di treno. Adesso si può andare a Bruxelles con 1:50 di aereo, insomma si fa prima andare a Bruxelles che andare da Firenze a Ancona, per esempio. Quindi tutto è cambiato con i sistemi, anche con le compagnie aeree low cost che hanno permesso a tanti giovani, ma anche tante persone che hanno dei redditi economici non elevatissimi, pensa ai pensionati, di poter viaggiare, di poter conoscere, di potersi spostare, di poter comunque esercitare il diritto che è quello della libera circolazione. Tante persone che non avevano viaggiato in passato, oggi grazie alle low cost, grazie al sistema dei trasporti che abbiamo, possono andare da una parte all'altra dell'Europa. Quindi per i giovani l'Europa è una grande opportunità. è anche una sfida, perché tanti giovani di altri paesi dell'Europa possono venire a lavorare, certo, però, insomma, in Italia, e questo è un fatto positivo. È il bello della contaminazione anche. Ogni volta che lei parla di aerei comunque un po' gli si illuminano gli occhi, è una sua vecchia passione, vero, quello dell'aereo? Ma sono stato... Ha fatto il pilota anche? No, non ho fatto il pilota, ho fatto l'ufficiale d'aeronautica, diciamo che facevo la guida caccia, cioè portavamo gli aerei sull'obiettivo. E ho fatto il commissario ai trasporti e sono fiero soprattutto di una cosa: durante quel periodo che ha preceduto quello attuale nella commissione Barroso 1 siamo riusciti a dare a tutti i cittadini europei, soprattutto a quelli a mobilità ridotta, che rappresentano un terzo della popolazione, il diritto di poter viaggiare come gli altri su tutti i mezzi di trasporto. Questo è stato un successo di libertà, un successo che mi ha gratificato come persona, e vedere che oggi tante persone disabili possono viaggiare, tanti anziani possono viaggiare, vedendo rispettati i loro diritti, avendo la possibilità di essere assistiti quando scendono o salgono in aeroporto, insomma con una serie di norme che li aiutano, è anche un, come mi ricordava un parlamentare portatore di disabilità in occasione della presentazione del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri, dice: ma voi non vi rendete conto quanto noi possiamo fare per voi? Voi credete con queste norme di poter fare tanto per noi, che è anche vero, ci restituite la possibilità per esempio di andare a trovare, certo, la nostra fidanzata o il nostro fidanzato, certo, è una questione di libertà, ma voi non vi rendete conto quanto possiamo fare noi per la crescita dell'economia? Dice: andate a vedere, vi raccontava questo parlamentare che era l'onorevole Porco, quali sono i dati dell'aeroporto di Lourdes, quanti sono i disabili che vanno là, quanto guadagnano le compagnie aeree con i viaggi a Lourdes. Cioè, vedete, così mettere in circolazione 137 milioni di persone in Europa significa incrementare il turismo, incrementare l'economia. Quindi, però, ecco, aver poter contribuito a restituire uno spazio di libertà a tante persone mi ha gratificato. Però ti senti contento di aver fatto politica al servizio dei cittadini. Commissario, grazie davvero. Insomma, grazie a voi, e grazie perché Radio 24 dà spazio a quello che accade in Europa, facendo conoscere a tanta gente una realtà che spesso appare lontana, spesso è poco conosciuta. Devo lanciare un appello a favore di tutti i giornalisti, fatemelo fare come giornalista, non dico in pensione, ma insomma, diciamo così, in quiescenza. Non abbandonate le sedi di Bruxelles, non riducete, cari amici direttori, cari editori, le postazioni nella capitale d'Europa. Date più spazio alle informazioni che vengono lì, date più spazio ai giornalisti, ce ne sono di bravissimi, diverse testate, che possono veramente essere utili a far conoscere decisioni importanti che determinano anche il cambiamento della nostra vita quotidiana. Il ruolo che l'informazione ha è importantissimo. Noi dobbiamo spiegarci meglio, ma le informazioni, i giornali, la radio, ecco, la radio può veramente fare tantissimo, e sono lieto che la Commissione europea e il Parlamento europeo, con le loro rappresentanze a Roma, abbiano aperto uno studio radio messo a disposizione di tutte le emittenti, come la vostra, come la RAI o altre radio, per fare delle trasmissioni dedicate all'Europa. Insomma, se volete venire a intervistare un commissario europeo o Barroso che viene a Roma, potete farlo direttamente nella sede della Commissione europea, in uno studio moderno, senza costringere magari qualcuno a venire a Milano. Radio 24 può fare una intervista proprio nella sede della Commissione e del Parlamento europeo. Vi invitiamo a essere presenti, ad utilizzare il più possibile questo strumento che abbiamo messo a disposizione dell'informazione. Grazie ancora per avermi dato la possibilità di raccontare un po' delle cose che facciamo a Bruxelles. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, sempre in diretta con l'Altra Europa da Piazza della Signoria a Firenze, nel cuore del Festival d'Europa, la prima edizione di questo festival promosso per trasmettere, per vivere, per dare anche informazioni sulla nostra Europa. Ma la festa dell'Europa oggi, lunedì, ma in questo weekend è celebrata in tantissime città in tutta Europa, e vogliamo collegarci proprio con una di queste iniziative, con uno di questi eventi. È una radio amica, una radio molto particolare, è un progetto che ci piace poter appunto avere in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a Katharina Wagner, una delle conduttrici di Euradio Nantes. Ciao Katharina. Ciao Federico, ciao. Scusa l'attesa, ma sai, è il bello anche della diretta. E Katharina, tu sei austriaca, ma in questo momento sei in Francia. Ci vuoi raccontare come nasce questo progetto e qual è un po' l'idea di questa radio per giovani e fatta dai giovani? Sì, allora è una radio europea locale nata a Nantes nel 2007, e il progetto consiste nell'accogliere dei giovani studenti, di giornalisti di tutta Europa, per praticare un'esperienza tutta europea di giornalismo. E le emissioni che vengono trasmesse ogni giorno sono in francese principalmente, ma anche in inglese, con qualche approfondimento anche in lingua tedesca, italiana o spagnola. La missione di noi giovani giornalisti è quella di conoscere bene le realtà locali e confrontarle ad altri più ampi contesti europei, per aprire nuove prospettive e confrontare le componenti culturali, sociali, economiche, politiche, eccetera. Certo, uno dei tanti modi, insomma, per raccontare questa Europa. In questo caso c'è proprio questo incontro tra il locale e il globale, tante voci di tante nazioni che cercano di dare una loro rappresentazione dell'Europa. E Katharina, oggi siete in onda con uno speciale per festeggiare appunto l'Europa. Ci vuoi raccontare in sintesi quelli che sono i momenti clou della vostra programmazione, della vostra attività? Allora, io sto facendo un'emissione con una collega inglese e un collega spagnolo, per esempio. Noi facciamo questa emissione tutta la giornata, perché le emissioni speciali andranno in onda dalle 9 alle 11 in tutti i bar di Nantes, ai posti pubblici, ai mercati. Durante le emissioni verranno presentati degli artisti, dei musicisti europei, e verranno fatti dei collegamenti con la gente che riempie le strade di Nantes, e collegamenti con altre radio europee interessanti alla festa dell'Europa, per esempio. Ok, quindi insomma cercate di dare voce ad altre feste, ad altre attività. Grazie davvero Katharina, ti lasciamo alla tua diretta, perché insomma ti abbiamo rubato tempo. E grazie a te, un grazie anche a tutti i tuoi giovani colleghi. Ciao Katharina, buona festa d'Europa. Ciao. Europostit. Giornalisti in erba internazionali. Siete giovani e studiate giornalismo? Vi piacerebbe imparare cose nuove e parlare in una radio? E magari anche conoscere studenti da tutta Europa con le vostre stesse passioni? Allora lo stage Euradio di Nantes fa per voi. Per 6 mesi avrete modo di essere seguiti da giornalisti francesi professionisti e fare pratica in un contesto internazionale. Per candidarsi c'è tempo fino al 15 giugno e si parte per Nantes ad agosto. Trovate tutto sul sito della radio, euradionant.eu. Raccontare l'Europa non è facile perché è un po' complicata, come parlavamo prima, sia con Angri sia con il commissario, un po' la struttura. E poi c'è il problema della lingua, perché che è anche il bello, no, del nostro continente, tante lingue, tante identità che si incontrano. C'è una persona qui al mio fianco che lavora, consigliere speciale per la comunicazione e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e insomma questo pallino dell'opportunità che tante lingue diverse invece ti possono dare per raccontare da tanti punti di vista diversi il nostro continente, ce l'ha da anni, e questo suo pallino si è concretizzato in tante esperienze. Euronet è una di quelle cose, per esempio, che a lui piacciono molto. Do il benvenuto a Thierry Vissola. Ciao Thierry. Ciao, buongiorno. Ti piace raccontare l'Europa? Eh? Sì, mi piace tantissimo. Il mio mestiere, per di più, dunque, ovviamente. Tra l'altro, io Thierry l'ho conosciuto insomma prima del programma, però ho capito che, per esempio, sei uno di quelli che conosce mille aneddoti anche sull'Europa che è e che è stata, vero? Quindi... Diciamo che ho passato 30 anni alla Commissione Europea e ho seguito abbastanza cose, sì. Particolarmente tutta la costruzione dell'euro, da cui mi sono occupato per 17 anni. Ah, quindi sei uno, che uno dei papà, forse? Delle... Beh, si può dire un po' così, uno dei papà nella sala delle macchine, ma sì, effettivamente. Sì. Ecco, adesso quando viaggi in Europa e puoi tirare fuori questo euro, cioè, quindi è sempre una piccola soddisfazione. Sì, credo. Sicuramente, perché quando sono arrivato alla Commissione all'inizio degli anni 80, eravamo in una situazione un po' di pericolo, poi c'è stato il lancio del sistema monetario europeo, con in Francia l'elezione di Mitterrand, che ha messo molto a rischio con i risultati economici questo progetto monetario, e fortunatamente grazie a Delors in particolare abbiamo potuto rilanciare questo progetto, e io ero là a questo momento, dunque ho potuto partecipare a tutta questa costruzione anche scrivendo una parte del trattato di Maastricht, qualche articolo, dunque ovviamente è un'esperienza di vita che si fa una volta. E di fatto posso anche dire personalmente, quando in 2002 è stato introdotto l'euro, io ho avuto quasi una depressione post-natale. Non sapevo più che cosa si potrebbe fare di interessante sull'Unione Europea per me come funzionario. Ma il primo euro che hai visto lo tieni ancora nascosto in un cassetto? No, ho visto di più, perché ero responsabile del gruppo delle zecche europee, mm-hmm, che hanno preparato l'euro, dunque ho anche contribuito non solo alle forme ma anche al disegno, per esempio le 12 stele che si trovano, sì, al rovescio delle monete di euro è un'idea mia. Ah sì? Sì. Insomma, vedi, che bello, uno dice il palazzo è qualcosa di freddo, invece no, sono queste le storie che fanno l'Europa. Thierry, però non siamo qui per parlare di euro, ma di passato, di Europa. Ma di futuro. Esatto. Anche, e, sì. In particolare... Euronet, ma anche Press Europe, che è un progetto che abbiamo raccontato tante volte qui all'Altra Europa, e che anche questo senti molto tuo, e tra le mani hai una pubblicazione che credo dia bene il sapore, sì, di questo progetto. Sì. Diciamo che dall'inizio degli anni 2000 abbiamo provato di incrementare una politica di informazione che sia un po' più vicina ai cittadini. Il problema ovviamente in Europa è la mancanza di, diciamo, di comunicazione tra le varie popolazioni, perché c'è questa barriera delle lingue. Dunque abbiamo provato all'inizio di creare quello che chiamavamo uno spazio pubblico europeo in quale si poteva fare discussione tra gli europei. Questa è la presenza fisica di Euronet, di Press Europe, mi scusi, perché Press Europe è un sito internet, e dunque per la prima volta facciamo un piccolo libro che riprende un po' il contenuto di Press Europe. L'idea di Press Europe è di presentare a tutto il pubblico, ai cittadini europei, la stampa internazionale in italiano o nella lingua dei vari paesi. E là hanno fatto un piccolo libro per fare un po' la promozione di Press Europe, che è un abecedere, cioè sono tutte le lettere dell'alfabeto, che ogni lettera dà una parola chiave che è spiegata attraverso un articolo preso nella stampa europea. E dunque c'è per esempio il C, che è cultura, dove un inglese, non è molto spesso un inglese che parla bene di Europa, sì, che si chiama Jonathan Jones, che scrive per lo Guardian, e mi permetterei di citare quella sua conclusione dell'articolo. E dunque dice così: credere nell'Europa non è idealismo, ancor meno è considerarla un'astrazione burocratica. Se si guarda alla storia e ai suoi vivaci colori, non si può non constatare quanto profondamente siamo europei e quanto profonde siano le radici della nostra comune identità. Insomma, questo è un po' il riassunto di tutto. Grazie davvero Thierry. ti voglio ospiti in una delle prossime puntate dell'Altro Europa, così facciamo una bella puntata per raccontare l'Europa attraverso le sue mille storie, va bene? Grazie mille. Buona festa. Grazie a voi come sempre per essere stati nella nostra compagnia. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo alle 10, saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino con un'altra puntata speciale, Padiglione 2 Stand L161. Grazie a Claudio Caruso, Margherita Aina, a Luca Burato qua con me a Firenze, Pietro Lacorte che invece era a Milano, insomma un grande grazie, saluto anche Angel che con noi è aperto. Ciao Angel, siamo proprio in chiusura, un ciao finale velocissimo. Ma buona festa dell'Europa a tutti e buon divertimento. Tra l'altro tu mi hai dato appuntamento alla notte blu, perché a un certo punto ti togli la cravatta, certo, vero? Certo. Perfetto. Ciao, grazie ancora. Grazie a voi, grazie a Firenze. Ciao da Federico Taddia.